Il libro di cui parliamo può essere, secondo me, definito polifonico in senso bakhtiano, a tutti gli effetti. Polifonico perché risulta dalla composizione di tante diverse voci su Louis Michel. Parlano, scrivono persone che l'hanno conosciuta, di cui hanno sentito parlare, che l'hanno incrociata da quando era bambina e ragazzina fino alla fine della sua vita. Ma un altro motivo per cui, secondo me, può essere definito polifonico è perché vi si compongono strati diversi della sua esperienza e emerge il divenire di questa vita che da una parte affonda le sue radici nei suoi primi rapporti familiari e con l'ambiente circostante, perché una delle costanti della sua esperienza fino a diventare un tratto forte della sua identità politica è la centralità del rapporto non solo con gli altri esseri umani, ma con gli altri esseri viventi e con la natura tutta. È quindi un piano di complessità intrinseca che lei costituisce ancora prima di elaborarlo intellettualmente, a partire da un sentimento di condivisione con la sofferenza, qualunque ne sia il portatore, che sia un altro essere umano, che sia un animale torturato, che sia una pianta sfruttata, e questo è sicuramente anche un elemento che porta su di una sensibilità del tutto contemporanea. Non credo che siano molti gli autori del movimento, anche dei movimenti estremi del tempo, che possano essere riconosciuti come portatori di una visione così ampia del fenomeno vita e della necessità di assumerlo nella sua interezza. Quindi questo strato proprio originario, addirittura pre-intellettuale, pre-politico, con un'esigenza molto forte di espressione, perché risulta il suo desiderio costante che accompagnerà tutta la sua vita di poetare, di esprimersi poeticamente, di non soltanto denunciare ma trovare le parole più adeguate e più forti per quello che ha dentro. E poi gli strati invece del suo agire sociale, prima sul piano credo che oggi chiameremo la condivisione dei saperi, cioè la sua funzione magistrale, la centralità per lei dell'educazione, dell'istruzione, innanzitutto per i poveri e per le ragazze e le donne. Lei poi, quando saranno i tempi dell'espressione massima dell'attività politica nella Comune di Parigi, sarà alla testa delle iniziative più radicali a favore non solo delle condizioni generali di vita delle donne, ma proprio dell'istruzione, della formazione culturale al femminile. E poi la vita la porta, o lei si fa portare, in altri strati dell'esistenza, la galera, e quindi la condivisione di questo spazio chiuso che però anch'esso viene rielaborato sul piano del senso, e poi soprattutto l'incontro con popolazioni altre nell'esilio, L'esilio non è il termine tecnico giusto, piuttosto si deve parlare di confinamento nelle colonie estreme destinate proprio alla prigionia politica. L'incontro con le culture altre, la contraddizione che si pone con altri militanti. La costretti a vivere e un riconoscimento di un senso di fratellanza umana anch'esso più ampio e forte di quelli che erano i termini correnti per un europeo del tempo. E questo è anche questo un episodio, un passaggio molto significativo, perché si sa che non tutti i militanti condannati in questa maniera si comportarono allo stesso modo. Diversi trovarono un accomodamento con la società coloniale francese del tempo. Anche in Algeria una parte dei condannati della Comune poi entreranno nello strato dei nuovi dominatori e concorreranno, benché su posizioni marginali, però alla macchina del dominio coloniale. Invece nella vita di Luis Michel, per come viene narrata, c'è questo continuo intrecciarsi di fili e questo crescere, perché quello di Luis Michel è un percorso di crescita e di rafforzamento progressivo delle ragioni della lotta, a partire da un fortissimo nucleo iniziale, però sempre l'accettazione di nuove sfide e di nuove questioni che la realtà, uno strato più ampio della realtà con cui si trova a vivere, pone. Ecco, in questo senso appunto farei riferimento a Bakhtin e alla sua idea di polifonia della narrazione, perché sia nella scelta della scrittura sia proprio nella vita narrata sento risuonare questo concetto. Che ne dici? Dico che sì, dico che... La polifonia, questo è come tanti libri che ho scritto, cioè ha una dimensione corale, insomma, di solito la caratteristica, questo l'ho scritto un critico letterario prima che me ne accorgessi io, ma insomma già diversi libri fa, no? Le voci sono sempre un coro nei miei libri, perché alla fine ho sempre cercato di comporre una pluralità di voci, no? Cercando di restituire una qualche forma di verità che non è mai una verità, proprio perché in realtà è un insieme di tante prospettive, no? Per cui in questo romanzo, ovvio, queste cose le facevo in quei libri che erano chiamati reportage narrativi, no? Quando scrivevo di immigrazioni, quando facevo questi viaggi in tutta Italia per raccontare la condizione dei clandestini al lavoro, no? E quindi partivo ovviamente dalle voci, dalle storie delle persone per raccontare la condizione migrante. Però questo poi di fatto lo faccio anche in un romanzo. Questo è un romanzo, come dire, no fiction, quindi romanzo storico propriamente, no? Quando andai a Fahrenheit il giornalista lo definì l'omologo di un biopic. No, effettivamente sì, era un po' questo, cioè una sorta di reinvenzione filmica, però per raccontare una vita così come è stata e come si è svolta nella verità dei fatti, posto che i fatti abbiano delle verità, insomma, no? E quindi ho scelto proprio di raccontare la prima parte della vita di Louise Michel attraverso le voci di chi l'ha conosciuta, insomma, no? Per dare appunto varie prospettive. Poi in realtà nella seconda parte del libro appunto la questione cambia, perché a un certo punto prende la parola il noi, cioè a un certo punto c'è questa voce della comune, è la comune che parla per raccontare se stessa, ed è proprio la comune che cos'è se non il coro delle persone, insomma, no? E poi invece nella terza parte la questione poi narrativa cambia, si rimodula ancora. Quindi il coro è proprio per me una questione di scrittura, ecco, di un po' di tanti miei libri, se non di tutti. E questo libro sta del resto in continuità, in particolare con altri due libri, cioè sostanzialmente è un po' la fine di un trittico, perché nel 2016 o 15, non ricordo più, pubblicai per la terza Eravamo come voi, che era un libro di storie di partigiani e partigiane che avevo incontrato appunto nei due anni precedenti per raccontare le condizioni dei ragazzi giovani, no, che andavano in montagna a fare i partigiani. E poi quello successivo, che invece quello sia del 2016, quindi l'altro del 2015, un romanzo, ancora una volta no fiction, che raccontava la storia vera di una guerrigliera curda di cui ero andato a recuperare la storia tra i guerriglieri curdi l'anno prima, appunto nel 2015, in una località che si chiama Mahmur, nella pianura desertica irachena, al confine con i territori controllati dall'ISIS, e avevo passato qualche tempo con i guerriglieri perché mi raccontassero la storia di questa guerrigliera curda. E quindi dopo le guerrigliere partigiane della resistenza italiana, dopo la guerrigliera curda di cui avevo raccontato la vita in romanzo, e questo è il terzo, un'altra guerrigliera partigiana che aveva fatto la lotta della comune, partendo da una vita normale, no? Del resto nel 2009 avevo scritto nel 2008 in realtà avevo scritto una canzone dedicata alla Comune di Parigi in cui citavo Louise Michel, e forse era destino che prima o poi arrivassi a scrivere un libro su Louise Michel, insomma. No, non ho capito, vuoi che facciamo più un dialogo? Perché se io poi parlo non smetto più e vado avanti a raffica. Cioè, ti fermiamo noi. Ti interrompimi quando vuoi. Sì. E quindi, come dire, Louise Michel in realtà mi venne proposta da Eleutera, no? Andrea Staide, che all'epoca lavorava con Eleutera, mi diceva: perché so che ti piace questa vicenda della comune, c'è scritto... Noi stiamo facendo una serie di biografie, ti va di fare questa su Louise Michel che ci ha scritto una canzone? Ho detto, certo, peraltro veramente ci avevo già pensato che un giorno forse mi sarebbe piaciuto farla, insomma. Per cui poi mi ci sono messo al lavoro, mi sono molto divertito. È stato anche molto faticoso, perché rispetto anche alla esiguità sostanzialmente del libro in termini di lunghezza rispetto ad altri libri che ho scritto, mi ha richiesto un impegno forse più concentrato ancora, perché per me si trattava di raccontare una vita, se vogliamo... Con il rigore dello storico, no? Per cui non inventarmi assolutamente niente, documentarmi in maniera più puntigliosa possibile, anche se voglio dire, no, se mi fossi inventato un sacco di cose alla fine nessuno se ne sarebbe accorto, insomma, no, e forse comunque mi potevo sempre pur giustificare dicendo appunto che le esigenze della drammatizzazione, no, mi hanno portato a inventare le cose. In realtà per me era importante non inventarmi assolutamente niente, inventandomi quelle cose che servono come nel restauro, no? Per colmare i buchi in qualche modo devi tratteggiare delle cose, quindi lì sei costretto a farlo, altrimenti essere più scrupoloso e attinente alla realtà, però ovviamente fatto con la voce letteraria propria di un romanzo, propria di un racconto letterario, appunto. E quindi ho provato a raccontare questa vicenda di una donna che forse sapete, appunto, in Francia viene chiamata la Vierge Rouge, insomma, no, la Vergine Rossa, perché è la Vierge, cioè è proprio una santa, no? Ci sono, mi è capitato di vedere anche delle vignette degli anni 20, 30, dove si diceva proprio Louise Michel era la Jeanne d'Arc dei camarades, insomma, no? la Giovanna d'Arco dei compagni, insomma, e appartiene un po' a tutta la storia della sinistra francese. In Italia la conoscono veramente in pochi Louise Michel, e spesso neanche tra gli anarchici, non tutti gli anarchici con cui ho parlato conoscevano Louise Michel. In Francia Louise Michel, che appunto diventa anarchica, quando fa la Comune ancora non si proclama anarchica, lo dirà: io sono diventata anarchica nel viaggio della deportazione in Nuova Caledonia. Però Louise Michel appartiene alla storia di tutta la sinistra. Ovviamente la Comune di Parigi è il momento fondativo della sinistra, e non solo francese, della sinistra mondiale. A Père Lachaise, no, del comune dove vennero il muro dove vennero fucilati i comunardi, davanti a quel muro ci sono tutte le tombe di tutto lo Stato Maggiore, di tutto il Comitato Centrale del Partito Comunista Francese, insomma, no? Da Thoré a Marchais a mille altri, insomma, che si fecero seppellire tutti quanti appunto scientemente di fronte al muro della Comune, perché la Comune è il momento fondativo, no? di un nuovo mondo, insomma, di un éclat, insomma, di uno scoppio rivoluzionario, che è la grande madre di tutte le rivolte, di tutte le rivoluzioni. Si racconta appunto che Lenin si mise a ballare nella neve quando la rivoluzione bolscevica superò quei 70-68 giorni, esattamente non saprei dire quanti sono, comunque approssimativamente tra 60 e 68 giorni, credo, che sono i giorni in cui è durata la Comune di Parigi, no? Quando la rivoluzione bolscevica superò, arrivò al 69esimo giorno, Lenin celebrò tutto questo con una festa ballando sotto la neve. Mao Zedong si fece seppellire con un libro sulla Comune di Parigi, no? Eccetera. Quindi la Comune è non a caso tra i curdi stesso, no? Poi mi è capitato di parlare della Comune, la Comune di Parigi è un momento che tutti i curdi, per esempio, conoscono, e lì si potrebbe fare tutto un discorso sui curdi, su quanto poi sia il loro grado di autoeducazione, di formazione politica, di cultura politica estremamente elevato, estremamente veramente articolato, avanzato, insomma, no? la cultura politica curda. Ora, tu dicevi qualcosa che appunto ho cercato effettivamente di dire nel libro, cioè la vicenda di Louise Michel, prima che politica, è proprio esistenziale, no? Quando si gioca spesso con quel gioco di parole un po' scontato, tutto sommato, ma non di meno vero, insomma, resistenza, esistenza, no? La parabola di Louise Michel è prima di tutto esistenziale, è il suo piano di immanenza vitale su cui si costruisce la sua coscienza politica. È proprio perché lei fin da piccola, no, manifesta questo sentimento di condivisione, e quindi questo sentimento empatico con la sofferenza, che poi lei a un certo punto diventa una donna tutta politica, e quindi anche la madre dell'anarchismo francese, in tutto sommato la vergine dell'anarchismo francese, no? A volte uno legge e ha l'impressione di trovare quasi una vicenda agiografica, no? Come le vite dei santi, qui si racconta quanto era bella, generosa, brava, in maniera stupefacente. Non può essere così, no? Dice, ma come? Ora va bene, non esageriamo, quella vogliamo rendere una roba meravigliosa. Insomma, era umana pure lei, no? E però quando uno legge appunto le biografie di Louise Michel, legge anche cose, memorie di nemici politici di Louise Michel, che magari appunto di Louise Michel pensavano che fosse una matta sognatrice, utopista, pericolosa, che ha fatto solo del male politicamente, però pure loro, che avendola conosciuta, erano costretti a dire quanto lei fosse effettivamente totalmente dimentica di se stessa, totalmente empatica con chiunque, totalmente generosa a livelli di smisuratezza e di follia, insomma, no? Per cui appunto poi e questo fin da piccola, no? Lei in campagna si giocava, come si è sempre giocato nelle campagne, no? A torturare gli animali, cosa che era un passatempo, insomma, in genere per tutti i bambini nati in campagna, insomma, no? E lei fin da piccola soffriva nel veder maltrattare gli animali, cosa appunto che faceva parte però appunto della cultura materiale della società in cui viveva. e divideva con un bambino povero e scalzo, divideva le sue scarpe che gli avevano appena comprato, perché Louise Michel in realtà è una figlia illegittima di una serva di un castello, quindi cresce in questo castello nobiliare, figlia di questa donna e non si sa di chi, no? Per cui c'erano due versioni, due ipotesi, perché la certezza non ce l'abbiamo, se fosse il padrone del castello, il nobile, il vecchio, oppure il figlio del vecchio, cioè il giovane nobile, che a un certo punto, infatti, poi, quando la madre di Louise Michel resta incinta, lui se ne va. Io l'idea che mi sono fatto è che probabilmente era stato lui il vero padre. Lei viene cresciuta da quello che probabilmente è il nonno, che era un vecchio nobile, ma la noblesse de robe, insomma, no? Un nobile di toga, uno di quei nobili che avevano acquisito la nobiltà come carica pubblica, no? Che però era un volteriano, era un illuminista, molto colto, per cui lui sinceramente, insomma, a leggere le cronache, ama questa bambina, le insegna il pianoforte, le insegna a leggere, le insegna ad amare la letteratura, le insegna ad amare la poesia, no? E lei a 10 anni comincia a mettere in scena delle opere teatrali nel giardino del castello con i suoi cugini, costringendoli a travestirsi per mettere in scena questi piccoli teatri. Insomma, lei fin da piccola viene educata a questo mondo di alta cultura, mettiamola così, no? Tant'è vero che invece la figlia legittima, che non abitava più il castello, un giorno si arrabbia col papà e dice: ma insomma, non puoi lei trattarla così come se fosse la tua vera figlia, insomma, no? Poi lei perde il senso delle distanze, insomma, no? Lei è pur sempre figlia della serva, di cosa stiamo parlando? E quindi Louise Michel nasce solamente che da parte di madre Louise Michel aveva un senso profondo religioso, tant'è vero che dicono che lei a 10 anni o poco più avesse espresso il desiderio che un giorno si sarebbe voluta fare suora, no? E quando comincia a scrivere poesie in tenera età, ci sono tutte queste poesie che risentono ancora molto del suo spirito religioso, fervente, cattolico, insomma, no? Del sangue di Cristo, eccetera, eccetera. Quindi aveva queste due ascendenze, no? Il nonno, diciamo così, volterriano, illuminista, e invece la madre, la sua zia, era proprio una suora di clausura, quindi lei era affascinata dalla messa, delle suore di clausura, eccetera, eccetera. A un certo punto lei decide sempre, ovviamente, guarda caso, no? Provvista di tutto questo amore per l'umanità, di fare l'istitutrice, no? Di mettere al servizio dei bambini la sua cultura, il suo amore per la cultura, eccetera, eccetera. E quindi decide che vuole fondare una sua scuola, insomma, no? E diventa istitutrice e finalmente poi va a Parigi. E andare a Parigi per lei significa veramente cambiare prospettiva di vita, cambiare forma di vita, e piano piano in qualche modo si libera, no, di quel vecchio mondo, e lì piano piano in quegli anni 60 dell'Ottocento si converte, quindi già passata la trentina in realtà, no, si converte a quel mondo, quel vasto variegato mondo del socialismo francese, e quindi il crocifisso lascia il posto alla bandiera rossa, ma quello che non cambia in realtà è questo suo spirito di devozione totale all'altro, no? All'umanità, questo spirito quasi sacrificale, in un senso più battagliano, se vogliamo. Cioè, lei ha un senso molto profondo, fin da tutte le poesie che scrive, delle prime poesie che scrive, che non sono mai poesie particolarmente rilevanti nella storia della letteratura. Lei la sua poesia l'ha scritta nella vita, in realtà, nella sua azione pubblica, esistenziale, politica. Però appunto c'è questo spirito di relazionarsi alla morte, no? Alla morte, cioè all'assoluto. Ecco, l'assoluto prima è quello di Dio e poi l'assoluto diventa l'umanità, no? Ma la sua vita non è altro che una relazione continua con l'assoluto, della quale lei si sente totalmente una parte, per cui lei non ha problemi a rinunciare alla propria identità individuale nei confronti di questo assoluto che la sovrasta, no? Per cui lei celebra la morte, spesso addirittura la cerca la morte, la cercherà la morte nella comune più di una volta senza mai trovarla, insomma, no? Quindi lei vive, per utilizzare un'espressione di Bataille, all'altezza della morte. Ecco, ti interrompo proprio su questo punto, perché non si può non pensare alla definizione che Bataille dette di Simone Weil, questa ebrea vergine sporca, e alla narrazione che fa delle sue proposte, una più folle dell'altra, di andare all'assalto delle carceri dove erano detenuti i compagni, questo spendersi oltre il limite per andare incontro appunto alla concrezione dell'assoluto che non è metafisico, è proprio materiato nei palazzi del potere, dall'altra parte a quelle lettere di Rosa Luxemburg dalla prigione, in cui lei si identifica col bufalo bastonato. Ecco, sono due altre figure di un nesso strettissimo tra istanza rivoluzionaria femminile ed empatia assoluta con tutto ciò che soffre sulla terra. È interessante questa cosa, sì, perché ora che mi ci fai pensare, probabilmente Bataille di Louis Michel avrebbe potuto dire la stessa cosa che dice Simone Weil, Lazare, no? La chiama nel Bleu du Ciel, che poi quando lei la chiama quella sporca, eccetera, però lì poi non si può non leggere anche quell'attrazione che Bataille ha nei confronti della l'ordure, no? Quindi effettivamente c'è questa cosa, insomma, e anche questo spirito ambivalente che Bataille ha nei confronti della dimensione sacrificale, ovviamente, no? Quindi e Louise Michel era effettivamente appunto quel modello di donna estremamente rigorosa, per esempio non risulta nessuna relazione che lei abbia mai avuto con un uomo, no? Lei in questo senso è la Vierge, proprio nel senso che aveva una suora laica da questo punto di vista, no? L'unica relazione d'amore totalmente platonico lei ce l'ha con Théophile, il giovane Théophile Ferré, che è di quasi 15 anni più giovane di lei, che è il suo amore stellare, per citare poi Nietzsche, insomma, cioè, quindi è il suo amore che non viene mai praticato, ma che era il suo amore destinale. Lui poi muore fucilato con la comune, e lei vivrà sempre devota nella memoria di Théophile per tutta la vita. Théophile, cioè l'amante di Dio, insomma, che forse non c'è un senso. Tutto questo passaggio Louis Michel, come dire, lo vive all'altezza degli anni 60, no? quando va a Parigi, e lì secondo me c'è una qualcosa di interessante, cioè negli anni 60 cominciano i primi circoli per l'emancipazione della donna, appunto, l'emancipazione della donna dal punto di vista del lavoro, le donne devono lavorare, e André Léo, forse la più grande femminista, che ovviamente all'epoca non c'era sta parola, della Parigi degli anni 60, che erano anni in cui anche quelli che aderivano all'internazionale della questione femminile non se ne curavano, insomma, era una minoranza della minoranza, insomma. Le due correnti principali del socialismo in Francia negli anni 60 erano, da una parte, i blanchisti, che come programma politico avevano ovviamente l'insurrezione, la presa del potere politico, e la questione di genere non era rilevante, insomma, no? Per Blanqui, e tanto meno per Proudhon. Proudhon manifestava un totale disprezzo per la donna, cioè la donna era un essere che era nato per stare in casa, ecco, e lì doveva restare. E Proudhon e i proudhoniani manifestavano un reale disprezzo per le donne, insomma. Quindi, ecco, in questo panorama politico invece la vicenda delle femministe degli anni 60 e della comune con le comunarde che prendono parte attiva alla lotta, sia Louise Michel e quelle poche altre che hanno preso le armi, e Louise Michel da questo punto di vista è la guerrigliera della comune, sia tutte le altre che si mettono a disposizione, non con le armi ma in altri modi. Quello è un momento decisivo, per cui con la comune, quando le donne prendono parte alla comune, a quel punto il movimento socialista, nessuno può più dirgli voi la vostra questione non è centrale, non è decisiva la Comune, anche dal punto di vista della questione femminile, segna un punto di svolta. Louise Michel, ovviamente, lei sta questi due mesi sempre in trincea e infatti comincia a diventare famosa tra i comunardi militanti, perché tutti sanno di questa tizia che non si fa mai dare il cambio, che se il suo plotone dopo una settimana lo fanno rientrare a Parigi per dargli due giorni di riposo, lei cambia plotone per restare sulle linee, no? Lei si gode solamente due pomeriggi in quella Parigi piena di fermenti rivoluzionari, no? In cui si abbatte la colonna Vendôme, in cui si inventano cose, in cui si scrivono poesie, ma lei, a parte quei due pomeriggi, per il resto passa sempre il tempo in trincea, schivando i colpi di pallottole e rischiando di morire più di una volta, appunto senza mai morire. Louise Michel era pure a Montmartre quando comincia la Comune, questo lo scrivo poi anche nel libro, ovviamente, insomma, racconto bene tutto, in maniera dettagliata tutta la vicenda. Il 18 marzo 1871 è la data d'inizio della Comune, e probabilmente lo sapete, insomma, però siamo alla fine della guerra franco-prussiana, quindi cade l'impero di Napoleone III e nasce la Repubblica, ma sta Repubblica in realtà è un riciclo delle élite politiche borghesi che già dominavano in realtà durante l'impero. Però la Comune non nasce come rivoluzione socialista, nasce in difesa della Repubblica. Ci sono i prussiani che assediano Parigi, e mentre i prussiani assediano Parigi viene fatta una colletta, un crowdfunding, si direbbe oggi, per comprare dei cannoni, le armi. Il popolo si arma, il popolo compra dei cannoni e li mettono a Montmartre. A un certo punto i prussiani trovano l'accordo con il governo di Thiers, che sta a Versailles, e dicono va bene, noi ce ne andiamo, però il vostro compito adesso è riportare l'ordine, perché ovviamente poi sia Thiers che i prussiani su questo si trovano d'accordo, si tratta di evitare fermenti rivoluzionari comunque sia. E quindi il governo Thiers dice adesso la guerra è finita, i prussiani se ne vanno, voi ci ridate le armi. A quel punto la gente di Parigi, i repubblicani di Parigi, non è ancora un'insorgenza socialista, i repubblicani di Parigi dicono no, questi ce li siamo comprati e appartengono al popolo di Parigi. All'alba del 18 marzo entrano le colonne guidate dal generale Lecomte, e in quel momento Louise Michel è lì a Montmartre, esattamente dove appunto adesso sorge il Sacro Cuore, no? Quella chiesa orribile che viene edificata proprio negli anni 90 per espiare le colpe della Comune, perché lì la Comune nacque. E arrivano queste truppe, le vedono arrivare, ci sono i primi colpi della luna da fuoco, una sentinella muore e Louise Michel corre giù da Montmartre verso Pigalle per avvertire la popolazione che stanno arrivando, no? E allora una colonna di uomini, donne, ma soprattutto donne, anziani, bambini e gli uomini armati salgono verso Montmartre, chiamati da Louise Michel, del tutto casualmente, lei era lì in quel momento, e si frappongono tra gli uomini armati e i cannoni e le armi, no? A un certo punto Lecomte e Thomas, che sono i due che comandano questa cosa, danno l'ordine andatevene, questi non se ne vanno, e quindi danno l'ordine ai soldati di sparare, no? Ma un sergente, se non ricordo male, grida noi non spariamo sulla folla, no? E non sparano, tirano giù le armi, i generali dicono sparate e loro dicono adesso i fucili li giriamo verso di te, no? Ecco, e questo è un po' la rivoluzione in senso etimologico significa revolvere, no? Girare, è esattamente un po' quello che è successo anche nella rivoluzione bolscevica, no? I soldati si rifiutano di sparare sulla folla e quei fucili li voltano sui loro comandanti. La rivoluzione comincia così, no? Sia nella Comune di Parigi che nella rivoluzione bolscevica. E a quel punto i soldati prendono Thomas e Lecomte, li fanno prigionieri, li condannano e li fucilano. Louis Michel poi dirà: questo è stato uno degli errori, il primo errore che è stato fatto, perché noi non dovevamo graziarli, ma in quel caso non era stata la Comune che li aveva uccisi, sono stati proprio i soldati che c'erano piene le palle di questi e li hanno uccisi. E perché lei diceva di no? Perché poi ovviamente questo fatto è stato poi giocato in un senso manipolatorio contro la Comune, no? Che è stata poi calunniata fino alla fine, no? La fine finisce, come sapete, che poi c'è questa settimana di sangue in cui vengono massacrati tra i 20 e i 30 mila comunardi sul bordo delle strade, appunto davanti al muro di Père Lachaise, eccetera eccetera, mentre Parigi era in fiamme, no? Parigi è incendiata, e quello diventò un capo d'accusa europeo nei confronti dei comunardi, perché tutti si diceva che i comunardi avevano dato fuoco a Parigi pur di non consegnarla nelle mani del governo borghese, quando invece ovviamente non era stato così, ma gli incendi erano scoppiati poi per i colpi di mortaio che cadevano sui palazzi, eccetera eccetera, e le donne in particolare vennero sempre chiamate le pétroleuses, cioè le incendiarie, e Louise Michel fu la pétroleuse per eccellenza. Louise Michel, in realtà, appunto, fino a quel momento la conoscono i militanti comunardi, appunto è una militante, non è una leader. E quando diventa Louise Michel, invece? Diventa Louise Michel quando c'è il processo in tribunale, no? E grazie a Victor Hugo, col quale lei era stata in contatto per anni e anni. Victor Hugo era il suo vate, no? Lei mandava sempre queste sue poesie a Victor Hugo, e c'è stato questo epistolario nutrito, fitto, che è durato per decenni. I biografi, io questa cosa non l'ho scritta nel libro, insomma, perché non mi interessava, no? Ma cioè nel cahier, nel quaderno di Victor Hugo, c'è tutta una lista quasi un po' ossessivo compulsiva di Victor Hugo, di tutte le donne che incontrava, siccome Victor Hugo era, dicono i biografi, particolarmente erotomane, lui si segnava tutte le donne che incontrava, e poi accanto a tante donne c'era una N, no? E allora i biografi si chiedono che cosa significasse questa N. Qualcuno dice che questa N significava nuda, che l'aveva vista nuda, e accanto a Louise Michel c'era una N. Per cui in realtà, insomma, per cui vabbè, lì ci si addentra un ginepraio di cui in realtà non ci interessa sapere se Victor Hugo è andato a letto con Louise Michel o no, insomma, ecco. Però al di là di questa cosa, Victor Hugo fu il suo nome tutelare per decenni, insomma. E quando Louise Michel va a processo, appunto, Théophile Ferré, peraltro, appunto, questo suo amore stellare, era stato il più giovane delegato eletto alla Comune, perché le elezioni della Comune furono il 28 marzo, dieci giorni dopo, no? Quell'episodio che ho raccontato, ci sono le elezioni della Comune. E Théophile era stato ucciso, come ovviamente decine, migliaia di altri. E quindi Louise Michel fa questa arringa che, grazie a Victor Hugo, diventa nota in tutta la Francia e diventerà il simbolo stesso della Comune, in cui lei rivendica con una autoarringa non a difesa di se stessa, rivendica il diritto a essere uccisa, rivendica il diritto a essere messa a morte anche lei, perché se avete messo a morte i miei compagni come Théophile, eccetera eccetera, voi dovete mettere a morte anche me, perché io ne ho il diritto esattamente quanto loro, perché ho fatto esattamente quello che hanno fatto loro, né più né meno. Lo fa con uno stile, insomma, no? E i giudici hanno l'intelligenza politica di non metterla a morte, capendo che l'avrebbero trasformata in qualche modo in una martire, dato il riflettore, come dire, l'evento che si era creato in quel processo lì, no? In realtà poi ovviamente lei diventa un simbolo, ovviamente in un altro modo, poi nel corso degli anni. Louise Michel, che rivendica di essere uccisa, è appunto il fulgore etico, no? Che poi Victor Hugo ne metterà in luce in una poesia poi, che poi le dedica, che diventerà forse come dire, il manifesto poetico di Louise Michel, insomma, questa poesia che Hugo dedica a lei. Tra l'altro anche Verlaine le dedicherà una poesia, Verlaine che era a Parigi durante la Comune, che era stato il capo ufficio stampa della Comune, Verlaine. Ma Verlaine, essendo Verlaine, viene condannato in maniera molto leggera, insomma, e diversamente da altri. In quei giorni, visto che stiamo parlando di poeti, c'era anche Rimbaud alla Comune, anche se lui era molto molto giovane, non conosceva ancora Verlaine, era andato lì per arruolarsi, e i biografi di Rimbaud su questo non, ovviamente lì non ci sono molte fonti, e suppongono che, perché a un certo punto Rimbaud ci sta un po', poi se ne va via, non, per sua fortuna, no? Come da quel punto di vista, probabilmente dicono che era stato violentato in una caserma, a giudicare da alcune cose era stato questo giovane omosessuale, appunto, no? E Rimbaud scrive però in quei giorni della Comune delle poesie, no? Scrive delle poesie in cui lui dice, c'è una poesia che dice abracadabrantesque, che era una cosa che avevo messo in quella canzone che avevo scritto sulla Comune di Parigi, abracadabrantesche, cioè queste parole magiche che dischiudono un mondo nuovo, no? Che è il mondo che apre la Comune di Parigi, che viene aperto dalla Comune di Parigi in questa evidente primavera, così dice Rimbaud della Comune di Parigi. Ecco, ti interrompo un attimo solo. Tu hai ricordato il rigore virginale di Louise Michel, che però non andava assolutamente insieme con alcuna forma di moralismo. Questo risulta chiaramente dall'episodio in cui tre donne che racconti, no? Tre donne, uno o due delle quali prostitute, manifestano la volontà di collaborare con la Comune, e vengono motteggiate, e lei subito si manifesta in senso contrario, per cui secondo me non c'è fondo, ma lei temeva la delusione, cioè temeva il fatto che l'amato non fosse all'altezza dei suoi compiti storici di incarnare l'umanità nella sua maggiore espressione possibile. Questa è una battuta, chiaramente, però ecco, è importante collocare questo elemento biografico dentro una visione invece estremamente avanzata e di combattimento del femminile, della questione femminile, sia sul piano dei diritti, sia contro tutti gli elementi culturali, retrogradi, patriarcali, maschilisti, eccetera, che sono proprio un pezzo molto forte della sua identità. Certo. Su Rimbaud, sugli ultimi giorni di Rimbaud, ricordo che c'è un testo molto stimolante, purtroppo non è stato mai ripreso, su Mordicus, non so se sulla rivista Mordicus. Che te lo facciamo vedere, te lo ricordi, Carlo? Che è veramente un pezzo su cosa è successo, su cosa può essere successo davvero, e quindi su come lui ha vissuto l'esperienza di quei giorni nella Parigi. Fatto sta comunque che è uno dei punti fermi del rapporto che poi verrà sviluppato ulteriormente tra poesia e rivoluzione, questa esperienza per quanto breve. E sì, come infatti, Rimbaud è, come dire, l'analogo poetico della poesia esistenziale di Louise Michel della Comune, insomma, no? La Comune è veramente la disseminazione dei corpi, dei segni, no? E la Comune è il ribaltamento, l'orizzontalità contro la verticalità, che è l'operazione poetica che fa Rimbaud, insomma, no? Mentre Louise Michel come poetessa è invece molto tradizionale, molto, no? Non opera quella rottura che opera nella vita. Louise Michel è una poesia carabinata, come dicono i francesi, perché lei ci teneva tantissimo alla sua carabina e non poteva pensarsi senza di quella. Anche se poi, sì, poi no, in realtà dicono sempre no, che sapesse sparare anche bene. Sì, sì, sì, questo sì. Deve sapere. Lei dice che aveva imparato a tirare, andava sempre a Luna Park al tirassegno ad esercitarsi. Dai oggi, dai domani, aveva acquisito una mira ottima e quindi era, pare fosse una buona tiratrice. No, siccome c'è un libro bello uscito di recente appunto sulla come che si intitola, qualcosa tipo La rivolta carabinata, per questo che citavo quel termine. Non lo conoscevo. Perché proprio ecco questo elemento della figura, della postura, del modo di agire, di essere di Luis Michel è secondo me ben rappresentato da Tardì nel suo fumetto sulla Comune, proprio la situazione che hai raccontato tu della presa dei cannoni lì è ben disegnata e c'è appunto anche lei con la sua carabina. Vai. No, mi ha fatto venire in mente una cosa parlavi delle prostitute appunto perché ovviamente le prostitute avevano appunto questo stigma anche presso gli internazionalisti appunto, no? Parlavi prima di come spesso anche loro fossero condividessero il colonialismo, no? E quindi condividono anche il maschilismo, il patriarcalismo. Certo, non gli si può attribuire come si direbbe oggi la libertà di essere una sex worker, perché non era in quel senso che lo faceva in quel senso di quella canzone anarchica ottocentesca che dicono sono nostre figlie le prostitute che muoiono tisiche negli ospedali. Cioè la prostituta è una sofferenza perché, no, nasce dal fatto della tua povertà di proletario, per cui sei costretta a fare la prostituta, quindi. Però ovviamente mentre altre appunto diciamo sei una prostituta e quindi non ti vogliamo sporcare la nostra bandiera rossa, lei invece no, la bandiera rossa semmai emancipa e universalizza una condizione di libertà per tutti. Non ne farei ovviamente una perché non lo era, no? Una che taglia la sua fascia e gliela dà. Esatto, quello è un po' interessantissimo, perché lei fa questa cosa, la dà a questa prostituta proprio in segno di fratellanza, ed è lo stesso gesto che lei farà, e che per me poi è il gesto più bello, quando sarà deportata in Nuova Caledonia, appunto che ricordavi tu prima, con i Kanaki, che c'è questo portatore che lavora lì nella colonia penale, che a un certo punto accade questa rivolta dei Kanaki, e i Kanaki sono selvaggi, la maggior parte dei francesi comunardi ritiene loro dei selvaggi, e quindi di fronte a questa rivolta poi addirittura prendono le armi proprio insieme ai loro carcerieri nel caso che i Kanaki arrivino alle porte della colonia penale, insomma, no? E invece lei si fa un sacco di litigate in cui si sentono gli urli, perché lei dice va bene, cioè loro hanno lo stesso diritto di insorgere e rivendicare la loro libertà come abbiamo fatto noi, no? Poi dopodiché è chiaro, questi Kanaki fecero dei massacri orribili per cui irrompevano nelle cascine delle colonie, massacravano donne e bambini eccetera eccetera, e lei dice, tant'è vero che poi lei in patria scrive a Victor Hugo e dice Victor aiutaci a fare una colletta in favore delle donne francesi che, no, perché lei appunto empatizzava a prescindere con chiunque fosse oggetto e vittima di una sofferenza, insomma, no? Quindi ovviamente lei non condivideva i metodi dei Kanaki, ma difendeva il diritto di insorgere per la loro libertà, insomma. E poi con i Kanaki fa quest'altra cosa, cioè lei da insegnante, condivisione dei saperi, dicevi tu prima, appunto, fa questa cosa di insegnare, ma inventandosi anche un modo, come dire, una didattica personalizzata nei confronti dei Kanaki. Cioè i Kanaki non gli può insegnare nella stessa maniera come si insegna a Parigi, e quindi si inventa il modo di insegnargli la matematica, si insegna il modo di insegnare musica, cerca di imparare lei la lingua, si fa raccontare un sacco di storie, di leggende, scrive, appunto le raccoglie in un volume, le leggende del popolo Kanako, no? Che poi diventa il primissimo esempio di etnografia della Nuova Caledonia, che lo scrive lei, insomma, no? E quindi io poi da insegnante, insomma, insegnando a scuola, posso dire, cioè, che Luis Michel diventa anche un riferimento importante anche da questo punto di vista. Sì, no? Anche nella sua esperienza ancora prima della Comune, no? C'è chi ha scritto di recente che quello che faceva Louis Michel oggi si chiamerebbe scuola natura. Sì. No? Sì. Il rapporto diretto del bambino con la natura, l'apprendere facendo, fuori delle classi, insomma tutto quello che la pedagogia più avanzata ha poi impiegato quasi un altro centinaio d'anni per portare a una, no? E lei, sulla base del suo modo di essere sostanzialmente, pone, ecco, è una che poi se voleva fare una cosa era difficile. Sì, era ostinata, come dire. Mi sono reso conto di aver lasciato a metà un discorso, ho aperto una parentesi, come al solito poi le parentesi non le chiudo mai, come diceva Totò, hai aperto la parentesi, chiudila, e io non le chiudo mai. Ma insomma, dicevo appunto che quando questo portatore viene a dirgli guardate, io torno al mio villaggio perché c'è la rivolta e quindi io devo tornare al mio villaggio, e lei divide in due questo fazzoletto rosso, che era il suo fazzoletto rosso, che era l'unico oggetto che sarà portata da Parigi e che era il fazzoletto rosso della Comune, lo divido in due e lo dà al canaco che torna verso alla rivolta. Quindi per me questo gesto è il gesto, no? Il gesto, nostra patria e il mondo intero, no? In quel gesto lì c'è tutta questa condivisione, questo passaggio di testimone, questa solidarietà, questa comunanza, che appunto anche in questo lei è un'eccezione rispetto a tanti altri, no? E poi tu citavi prima quello che oggi si chiama antispecismo, insomma sostanzialmente lei è un precursore dell'antispecismo, perché le cose che lei scrive da questo punto di vista sono clamorose, insomma, no? A livello di sensibilità. Ci sono le cose che anche scrive anche Pietro Gori di lei, perché Pietro Gori la conosce bene, perché tant'è vero che la prima edizione delle Memorie di Louis Michel c'è tutta questa lunga prefazione di Pietro Gori che racconta com'era lei negli anni 90, perché lui la conosce quando lei appunto per qualche anno va a Londra e diventa la cassiera dell'associazione, ma cioè, io non, so, non si sa, almeno io non l'ho letto, insomma, chi è che ha avuto l'idea di dare a lei l'incarico di essere la cassiera, perché era la persona evidentemente meno indicata per fare la tesoriera, perché lei arrivava uno e diceva io sono un profugo russo e lei gli dava i soldi, cioè, che poi dicevano ma guarda questo qui finge, e vabbè ma se si finge, se si è ridotto così per in modo di dire una cosa così ignominiosa per se stessa, vuol dire che ne ha bisogno allora, no? Quindi, ovviamente insomma lei non era in grado. Una domanda, ma secondo voi, lo faccio a entrambi, questa pedagogia moderna, no? Di Louis Michel in qualche modo fonda anche la scuola moderna e tutta la pedagogia che segue? O è soltanto una suggestione, un anacronismo nostro di leggerla? Devo studiare, non ti so rispondere, però è una questione interessante. Sì, ho capito. Devo andare a cercare mettersi lì. Il fatto è che Michel non ha scritto niente su questi temi. Non sono testi teorici, pedagogici. Non puoi confrontare i testi. Si può cercare di e vedere se qualcuno ha soprattutto lavorato proprio sul pensiero originario di Ferrer eccetera, però vediamo di approfondire e chiediamo poi anche a chi ne sa di più e di risponderti. Grazie. Quindi sì, insomma io no? Penso che abbiamo detto quasi tutto. Sì, possiamo finire chiudendo la bandiera nera, visto che esatto, manca solo il nero. Ecco, manca la bandiera nera, perché visto che poi appunto Massimo ha fatto le mostre sulle bandiere anarchiche, il nero diventa il colore degli anarchici proprio a partire da Louis Michel, no? Quando lei, che poi verrà scippato dai fascisti tramite, no, gli avanguardisti, interventisti, eccetera, eccetera, eccetera, questa affiliazione qua, ma è il colore degli anarchici a partire quando lei, c'è il funerale di oddio, Alzheimer, Noir, come si chiama di nome più? un giornalista, c'è la tomba abbastanza nascosta al Père Lachaise, non dove ci sono i comunardi, perché lui appunto qualche anno prima della Comune era stato ucciso in un duello, Victor Noir, ecco, che era stato ucciso in un duello con un... lui era un giornalista perché aveva il fratello dell'imperatore di Bonaparte si era sentito calunniato e quindi l'aveva sfidato in duello e questo muore. E lì ci sono queste esequie immense a Parigi e poi arrivano al Père Lachaise e lo seppelliscono lì, insomma, no? E quel giorno Louis Michel fa voto di non vestirsi se non di nero da allora in avanti, e quindi il nero diventa il colore dei ribelli, no? Finché non avremo vinto, perché noi viviamo il lutto, no? Per questa sofferenza patita, per queste ingiustizie vittimarie di cui, e quindi finché non ci sarà il riscatto di tutta questa cosa, noi porteremo il nero, no? E allora il nero diventa il suo colore e quindi poi il nero diventa la forma del riscatto delle sofferenze e dei lutti patiti, insomma, e quindi sarà poi la bandiera che comincerà a sventolare dopo. E in particolare nei cortei poi degli anni 90 il nero diventerà proprio ufficialmente, insomma, il colore degli anarchici. Ma e negli anni 90 il leader indiscusso, insomma, o comunque il leader nel senso il testimone, no? Ovviamente gli anarchici non hanno proprio leader, ma no? il testimone, la personalità più illustre, più riconosciuta, che andava in giro perché è andata in giro per 15 anni instancabilmente a fare conferenze ovunque, si metteva al testa degli scioperi andando di nuovo in prigione più volte, appunto era Louis Michel, e Louis Michel era identificata da questo colore nero e quindi si innalza la bandiera nera, insomma, no? Ho detto bene? Che te ne sai più di me di queste cose qua. Comunque, visto che si è parlato, diciamo, del quotidiano della Comune, vale la pena di ricordare quel film 16 ore, un bellissimo film di 16 ore che abbiamo visto qua qualche anno fa, in cui viene raccontata la storia di un quartiere di Parigi, anzi più precisamente di un isolato di Parigi, e attraverso quell'isolato viene raccontata la storia della Comune giorno per giorno, dall'inizio alla fine, con un espediente narrativo come se a quei tempi esistesse la televisione e quindi esistevano due televisioni, la televisione dei Versaglesi e la televisione della Comune. E attraverso questo espediente narrativo la Comune viene riportata proprio ai suoi elementi materiali, materici, alle prossimità, alle distanze proprie di quella città e del vissuto. Di un episodio che in nuce riporta alla questione della funzione controrivoluzionaria dello Stato in tutta la sua sfaccettatura, in tutte le sue dimensioni, no? Tu appunto ricordavi che l'esercito francese, l'esercito tedesco, prussiano, interrompono le loro ostilità per dare il tempo ai versagliesi di reprimere la Comune. Questo è un pattern, una cosa che si ripeterà in tutte le guerre successive, fino per esempio alla guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, durante il bombardamento, lo spettacolare del bombardamento di Baghdad, ci furono delle sollevazioni di operai sciiti nel petrolifero e a un certo punto, insomma, i bombardamenti furono sospesi per dare tempo a Saddam di andare a reprimere ovviamente di Saddam di andare a reprimere la cosa. Quindi la conoscenza, come dire, quotidiana di tutto lo sviluppo di quella faccenda permette poi di riconoscere gli episodi che si ripetono nelle diverse compagini storiche successive come in vitro, come in nuce, nello stesso tempo con una crudeltà e una crudezza che è definitiva. Oltre ai più di 30.000 esecuzioni ci sono 60.000 deportazioni a vita sostanzialmente. No? No, solo questo. A me sembra come avete raccontato, che, cioè, come hai raccontato Luis Michel, cioè, cercava la bella morte, no? Cioè, era sulle barricate, però in realtà non è che cercava di uccidere, cioè di, però a un certo punto invece decide di andare a Versailles e a tentare la vita di ritiro addirittura di Thiers. Ecco, cioè, questo suo modo, questo aspetto, cioè, per cui lei non è una violenta, però in realtà insomma, vuole fare un'azione che oggi diremmo terrorista, cioè andare a farlo fuori, cioè, lei da sola oltretutto, senza avere un'azione combinata. Ecco. Poi viene, va, addirittura raccoglie, compra dei libri per dimostrare che è arrivata fino là, però poi non porta a termine questa, o non riesce a portare a termine questa azione. Quindi questo aspetto anche della sua, del suo modo di agire, di essere. Sì, lì lei va a Versailles non tanto per fare, ma per dimostrare che si può fare, no? Perché lei la sua tesi, mentre tutti gli altri gli dicevano no, non ha senso provare ad andare a fare a Versailles, non avremo le forze, eccetera, eccetera, e invece lei dice vedete che si può fare, no? Gli altri gli davano la pazza. Che poi lì si apre la questione, la Comune avrebbe potuto sopravvivere se stessa, cioè, e alla fine ovviamente non aveva le forze materiali per sopravvivere, no? E qualcuno dice se avessero fatto nelle prime due settimane un attacco su Versailles in cui il governo di Thiers non sarebbe ancora stato pronto a reagire, forse probabilmente quello poteva essere il momento in cui, cioè, chi, ovviamente no, sono tutte ipotesi che probabilmente sarebbe andata a finire male lo stesso in ogni caso, insomma. Però probabilmente se c'era una piccola finestra in cui, che non è stata sfruttata, almeno poi Luis Michel successivamente era questo, cioè l'unico momento di apertura di debolezza era quello possibile, no? avendo perso quell'occasione, perché nelle prime settimane ancora nell'assemblea c'è chi vuole cercare di essere riconosciuti dall'assemblea di Versailles, cercano di mettersi d'accordo, ma poi l'assemblea di Versailles non ha nessuna intenzione di riconoscere un niente, no? Alla Comune di Parigi, e quindi poi a quel punto però poi le cose diventano irrecuperabili, insomma. Sì, questa valutazione di Luis Michel, che ovviamente come tutte le valutazioni, gli sforzi di comprendere una sconfitta grave è discutibile, però sta al centro della riflessione, almeno della riflessione militante di oggi sulla Comune, perché se non se ne vuole fare un'icona, una bella e tragica fiaba, bisogna comunque cercare di capire cosa è stato fatto di giusto, cosa di sbagliato, cosa si sarebbe potuto fare, come si sarebbe potuto anche solo vendere più cara la pelle, no? Come diceva sempre Riccardo, sì, in Spagna si sa che era persa fin dall'inizio, però si sarebbe potuto vendere più cara la pelle. Queste valutazioni di Michel sono state riprese proprio in anni recenti, io le condivido personalmente. Il nesso insurrezione, guerra rivoluzionaria è un nesso molto problematico e denso di questioni, così come la questione del nesso tra movimento e istituzionalizzazione del movimento stesso, quindi tutta la questione delle elezioni, della rappresentatività, tutta roba che deve essere oggetto di critiche, di valutazione. Certo, beh, il governo operaio, i salari uguali, però non sta lì, secondo me, il nucleo problematico. È proprio la questione di riuscire a mantenere un'unitarietà del movimento, unitarietà in senso offensivo, cioè far seguire alle parole i fatti, vedere distintamente il nemico e a operare di conseguenza. Questa che alla fine poi è sempre la parte debole dei tentativi anche più arditi, no? Sempre questo temere di andare fino in fondo, ci sei portato, tanto comunque davanti a un muro ci finirai, allora tanto vale giocarsele tutte poi nel frattempo c'erano state anche diverse insurrezioni locali in varie città della Francia, no? Che si erano autoproclamati comuni, quindi quel momento magari è legittimo pensare che se il governo di Versailles fosse stato temporaneamente messo in ginocchio, questo avrebbe dato magari fuoco ad altre e forza a quelle insorgenze locali che c'erano state, ma magari poteva essere, e quindi poteva crearsi una rete grande di quella che ovviamente. Ecco, solo una cosa ancora. Sul ruolo delle donne nelle ideologie socialiste del tempo e sul riconoscimento che deriverà dalla pratica attiva di queste proletarie nei giorni della Comune. Io condivido quello che è stato detto finora. C'è però secondo me da segnalare il fatto che quella della Comune è proprio il momento in cui avviene un riconoscimento all'interno delle culture del movimento proletario, ma i primi atti forti sono già negli anni 30 e soprattutto nel 48. Cioè le donne, le popolane, le proletarie sono già alla testa di pezzi molto importanti del movimento, situazioni molto importanti, e poi successivamente verrà riconosciuta questa centralità. Però diciamo, fanno le cose prima e poi dopo, a distanza di quei 20 anni, vengono riconosciute. Ma la Comune non è il primo atto di presa in mano della propria storia. Almeno bisogna andare indietro, ripeto, il 30 e soprattutto il 48. Beh, cioè, adesso anche nel 1791 no, anche, c'erano state pesciaiole di con erano andati a Versailles a prendersi il resto con il precedente illustre, ma proprio adesso parlavo proprio del movimento proletario, del movimento socialista, almeno c'era. E poi sì, certo, le arrabbiate e anche lì, ecco, quella delle pescivendole ubriache è uno dei momenti di cristallizzazione di un'ideologia che è al tempo stesso antifemminile, antiproletaria e antirivoluzionaria, no? Queste come antialcolica, sì. Ecco. Va bene, direi che possiamo contarci per la cena. No, aspetta, c'è il Flavio Vida che... Stiamo parlando lui. No, gli ho chiesto se chiudeva con una canzone della Comune. No, che mi chiudete pure, no, ma... No, dai, dopo... No, dai. Era una nota che... Ah, vai anche al microfono, come sempre. Dai. Era una nota che mi interessava condividere con voi. Ho letto, per caso, diciamo, un libro di Michelet, lo storico della rivoluzione francese, diciamo anche delle donne della rivoluzione francese, e l'estensore del libro sulla strega, di cui Barthes fu un grande ammiratore. Beh, insomma, Michelet descrive la montagna, a un certo punto Michelet viene cacciato dall'università, siamo nel 51 credo, e se ne va per i cazzi suoi per un po' di anni. E decide di studiare i mari, il mare e la montagna. Fa un libro che si chiama La montagna. In questo libro lui descrive, siamo cioè tra Lecco e l'Engadina, non siamo tanto lontano, un pezzo, e descrive le piante, descrive la montagna come il luogo di più avvenimenti, il luogo di avvenimenti geologici, delle pietre, delle cose, la montagna è un posto rovinoso. E un'altra cosa molto interessante che mi ricorda un atteggiamento che tu mostravi di Louis Michel, è che lui ha un'empatia con gli esseri viventi, in particolar modo in quel momento lì, sulle piante delle montagne. E descrive come l'intelligenza del... Scusate, io non so un cazzo di piano, non so distinguere un pelo da un melo, ma l'intelligenza di quel tipo di piante che salgono fino a 2000 metri, poi si ritirano in tempo, poi stanno dove ci sono... il pino ha un atteggiamento verso i fatti della natura che appare come di grande punto che rischia, oppure nella mia testa di pirla, rischia di sembrare alcuni fenomeni che appaiono con Disney. Io ricordo Disney soprattutto perché sono di una generazione che si è magnata Disney da bambino, cioè dare alle, agli oggetti della natura, agli enti della natura una, sua, una loro individualità e soggettività persino, quindi attribuire sentimenti, intenzioni e quant'altro. Ed è sorprendente perché inaspettato, io non aspettavo che un pensatore positivo dell'Ottocento avesse questo tipo di atteggiamento verso le forme del vivente, che mi pare che anche tu hai mostrato far parte dello stesso, diciamo così, come si semplifica dicendo, bagaglio culturale o lo scambio, scambio simbolico della, della, della nostra... Della... Sì, però non è un caso che si è forse occupato della strega nella maniera in cui se ne è occupato, cioè femminile e natura... stanno, è vero, positivista sì, ma non positivista Lacomte, no? Positivista nel senso della, dell'aderenza ai fatti, ma con un, un'apertura di fatto, perché di questo si tratta, che appunto non a caso si trova rispetto al femminile come rispetto alla, alla natura. C'è una piccola nota dove lui intervista un cacciatore dell'Engadina, non so, non ricordo, uno Kovacs, forse non mi ricordo il nome, uno che aveva ammazzato migliaia di camofi, e questo gli dice, dice, vedi, ah no, lui dice, spariscono delle specie erbacee, scusate ancora la semplificazione, vegetali spariscono di qua, e questo dice, guarda, queste specie che erano qua, adesso li trovi negli Stati Uniti, sono 1850, le nostre specie erbacee hanno sostituito le specie erbacee degli Stati Uniti come, e distrutto e ucciso, usa anche il termine, come i bianchi hanno ucciso le popolazioni indigene di quei luoghi. Ci sono delle, no? C'è questa empatia che poi si allarga, è molto impressionante, mi è molto impressionante. Perché io sono un cretino, voglio dire, cioè non sono abbastanza preparato, ma è come se a un certo punto nell'Ottocento si giocasse ancora una relazione tra le ricerche empiriche e una sorta di, come dire, non dico residuo di spiritualità, ma in qualche modo assegnare a vita anche laddove non veniva vista vita, in qualche modo, che questo si scinderà poi definitivamente più tardi, insomma, la scienza moderna è una sensazione. E non è un caso che nel momento in cui sorgono le scienze moderne, quindi siamo attorno a fine, a cavallo del, del secolo, insomma, 800-900, nascono strane, bizzarre formulazioni spiritualistiche, che si autonomizzano rispetto alla configurazione della società, dei saperi, se volete, della gerarchizzazione dei saperi del tempo. Questo mi ha dato un'impressione. Mi ha sorpreso molto che questo professore universitario e anche, come dire, critico del regime, cacciato, esiliato, insomma, mi ha mandato fuori dai coglioni, insomma, avesse questa fortissima capacità di rendersi conto di quello, della vita che lo circondava. Claudio, a proposito di chissà questo, se Mancuso conosceva... Ho letto un libro recentemente di un professore di filosofia in Francia, Emanuele Costa, che è italiano. Ecco, la vita delle piante. La vita delle piante. Metafisica, cioè la nostra metafisica. Vita delle piante è l'altro sottotitolo della metafisica del vegetale. Del vegetale. Oh, tre passi siamo al romanzo del fenotipo di Gottfried Benck. Tantissimo. È per rischio quello lì. Invece vi volevo dire una cosa, è una battuta. Allora è uscita una ricerca dell'MIT che pare che tra i comunisti del mondo soltanto 10 persone abbiano letto con Flora Tristan, di cui 7 risiedono a Milano. Non fate l'altra. Tanto le chiude non è spirituale, spiritosismo. ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dans ma fortune, à ma tante offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours les tendres cerises et les souvenirs que je garde au cœur. Ho fatto degli errori imperdonabili, non sapevo cosa.